GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta, sono qui per continuare la striscia vincente. Marcello Lippi si è presentato ieri come nuovo CT della Nazionale. Su uno dei temi più caldi, la possibilità di un ritorno di Nesta e Totti, Lippi è stato molto chiaro, lo sentiamo. Mi sentivo in debito con la federazione in qualche maniera e perciò questa è stata la mia maniera di pagare questo debito, e cioè di rifiutare tutto quello che mi arrivava e di aspettare, se ci fosse stata la necessità, di ritornare a prendere questo posto. Per quanto riguarda il discorso di Totti e Nesta, io sono fermamente convinto che bisogna rispettare l'opinione delle persone, in questo caso l'opinione di due grandi giocatori che tanto hanno dato alla Nazionale a livello di infortuni e a livello di partecipazione, di passione, e perciò nella maniera più assoluta io non ho minimamente intenzione di prendere in considerazione un ritorno di questi giocatori, perché non è giusto, perché hanno preso la loro decisione e come tale va rispettata. Parliamo sempre di commissari tecnici, torna Lippi in azzurro, Aragonés lascerà la Nazionale spagnola del Bosch con nomina che avverrà tra una settimana. Terim, a sorpresa, rimane invece in sella alla Turchia. Fatih Terim, infatti, aveva annunciato la settimana scorsa la sua intenzione di allenare un club europeo. Invece resterà alla guida della Turchia fino al 2012 e lo ha annunciato il presidente della Federcalcio turca, Hasan Dogan. Michel Platini, invece, difende Domenech. Quello di cui c'è bisogno oggi, dice il presidente dell'UEFA e vicepresidente della Federcalcio francese, è rinnovare i giocatori e qualificarsi per i mondiali del 2010. Quello meglio posizionato per riuscirci è Domenech, perché è quello che più conosce i giocatori attuali e quelli futuri. Parola di Michel Platini. Torniamo in Italia. Una notizia molto triste, quella che riguarda un ex azzurro. Marc Iuliano, attualmente a Ravenna, che è risultato positivo ad un metabolita della cocaina, ad un controllo antidoping, in occasione della partita giocata dalla squadra romagnola il 1 giugno scorso contro il Cesena. Ieri assemblea di Lega per parlare di Serie B, di diritti TV e a margine ovviamente di mercato. Il presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli conferma: la Juventus cerca un centrocampista importante, ma non sarà Stankovic non gradito ai tifosi. Sentiamo Cobolli Gigli. L'opinione dei tifosi è un'opinione importante, dopodiché bisogna fare tutta un'altra serie di valutazioni, e quindi Stankovic io credo che sia ancora sotto esame, però pesa indubbiamente l'opinione dei tifosi. Questa sera all'Arena Civica di Milano si corre la notturna, la tradizionale gara estiva di atletica del capoluogo lombardo. Nei 400 metri c'è anche Oscar Pistorius, che cerca la qualificazione olimpica. Sentiamo. Oscar Pistorius adesso è un uomo felice. Sarà in gara all'Arena Civica per la notturna di Milano, la sua prima prova nei 400 metri dopo la sentenza del Tribunale di Losanna, che ha dato il via libera alla sua partecipazione ai Giochi di Pechino. Una gara importantissima perché è la prima delle tre in cui l'atleta sudafricano potrà dimostrare di saper correre i 400 metri nel tempo minimo di ammissione agli Olimpiadi. Mi sto allenando bene, ho tanti tifosi al seguito, ma su di me ci sono molte pressioni e responsabilità, dice Pistorius prima della conferenza stampa in Regione Lombardia, dove presenta il suo libro Dream Runner. Abbiamo provato che con le mie gambe artificiali non ho vantaggi sui normodotati, ripete ancora una volta l'atleta appena 22enne, che soltanto lo scorso maggio è stato riabilitato dal tribunale sportivo. Dopo Milano, altre due possibilità, una a Roma e una in Svizzera, per poter finalmente dire: a Pechino c'ero anch'io. Marco Lignana, GR24, Il Sole 24 Ore. E sempre a proposito di Olimpiadi, l'Argentina ha scelto il campione di basket Manuel Ginobili come suo portabandiera per i prossimi giochi. Il giocatore dei San Antonio Spurs, cresciuto cestisticamente in Italia, ha ottenuto 8 voti battendo la concorrenza del rematore Santiago Fernandez. Il nostro portabandiera, Antonio Rossi, invece, ieri ha detto di volersi ritirare dopo Pechino. Dopo le Olimpiadi basta ritiri e allenamenti estenuanti, voglio essere un marito e un papà più presente, ha detto Rossi. Ed è tutto per GR Sport di questa mattina, di nuovo buona giornata.